brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa mattina vorremmo offrirvi un putpourri dedicato soprattutto alle ascoltatrici. Abbiamo più volte toccato il tema della letteratura tipicamente femminile, anche se poi abbiamo scoperto che sono tantissimi gli uomini interessati al fotoromanzo, al romanzo rosa, ma soprattutto a quel meraviglioso genere, anzi sottogenere cinematografico che nasce in Italia e che noi abbiamo definito il lacrima movie. Storie di orfanelli, storie di povere ragazze martoriate, storie di famiglie distrutte, storie di malattie, storie di tisici, storie di soffocati, storie di genitori lacrimosi ed indegni figli. Beh, questa mattina preparatevi il fazzoletto, di questo parleremo. Ho un appuntamento col signor Fernando Rivoli. Dovevo dargli un'ammiratrice. Volevo dargli... Come ti chiami, cara? Una bambola appassionata. Ah, oh, delizioso! Io sono Marilena Alba Vellardi. Marilena Alba Vellardi, l'abisso stellato, anima in tumulto, cuore nella bufera, peccato e damasco, nel vortice dell'amore. Tutta la settimana aspetto soltanto il sabato che mi porti il mio giornaletto. Vado a prenderlo alla stazione, poi corro a casa, mi chiudo nella mia stanzetta e lì incomincia la mia vera vita. Leggo tutta la notte. La vera vita è quella del sogno. Oh sì, io sogno sempre. Non c'è altro da fare laggiù. Cosa vuole? Gente volgare. I giovanotti non sanno neanche parlare, sa? Questa è la storia dello sceicco bianco, una storia succosa raccontata da Fellini. Wanda è una giovane sposina in viaggio di nozze che approfitta per andare a vedere l'eroe di tutti i suoi sogni, che è lo sceicco bianco, il cialtrone Alberto Sordi, con una moglie terribile che in realtà vorrebbe soltanto farsela, che lei vede come un'immagine da sogno, lui che va sull'altalena con questo vestito da sceicco. Lo sceicco bianco era uno dei tanti eroi dell'immaginario femminile che in realtà ne ha visti di combattenti e di guerrieri in quell'epoca, ma che aveva bisogno di ricostruirci un immaginario su temi lontani, temi antichi, sempre, sono sempre appartenuti un po' a questo ridotto recesso della fantasia dell'immaginario femminile, ma che il fotoromanzo rendeva e riportava all'attualità, dando l'illusione che appunto tutti questi divi, questi eroi, molti diventarono poi in realtà titolati e importanti attori del cinema italiano. I grandi nomi del cinema dei primi anni del dopoguerra passarono tutti per il fotoromanzo. Beh, invece per lo sceicco bianco in realtà la protagonista fu una grandissima delusione. Ricordo tutte le sue creature: la contessina Lucilla, Felga la zingara, Raniero l'avventuriero, ma più di tutti lo sceicco bianco. Che sublime Fernando Rivoli, che espressioni che ha! Questa mattina ho l'autrice di un trattato proprio sul fotoromanzo, che è appunto Il fotoromanzo, edito dal Mulino, è Anna Bravo. Anna Bravo, buongiorno. Buongiorno. Non so se la mia lettura corrisponde all'esattezza poi dei dati che ha avuto modo lei di controllare. Io almeno la vedevo così. Ho vissuto i primi secondi anni 50. Da bambino vedevo questi fotoromanzi, capivo quanto c'era di sogno velleitario dentro. Era cinema che non si aveva più, che non si poteva avere, che entrava nelle case, nelle parrucchierie, nei luoghi di lavoro e nei luoghi di svago delle ragazze, ma anche delle signore, attraverso il fotoromanzo. Velleitario è esagerato, a mio avviso, perché la gente sa distinguere tra fantasia e realtà. Lo dico velleitario rispetto al cinema, il fotoromanzo era il cinema ridotto in poche sequenze. Sul genere ho un grande rispetto, una grande ammirazione, anzi sono appassionato della poetica del fotoromanzo. Sì, diciamo, è un modo di evadere. La parola evadere è una parola importante che ha fatto molto paura, in particolare alle grandi centrali egemoniche sul piano culturale in Italia nel dopoguerra, cioè quella comunista e quella cattolica, che proprio perché era un elemento di evasione da una quotidianità, come lei diceva, tremenda, guardavano i fotoromanzi con un grande sospetto. Quindi c'era un doppio anatema, laico e confessionale, nei confronti del fotoromanzo. Sì, perché per ragioni diverse, in parte diverse, tutti e due questi grandi erogatori di cultura, educatori complessivi, si fidano intanto in generale della cultura di massa. È un fenomeno tipicamente italiano e francese, non per esempio americano. In secondo luogo sono certamente moralmente rigoristi in quell'epoca, e poi c'è questa paura. Beh, era l'epoca in cui Togliatti non poteva ammettere che si facevano il deiotti, facevano finta di nulla, erano i rappresentanti del pensiero laico. Sì, però si può essere laici e in qualche modo fare riferimento a vivere dentro di sé, credere in un rigorismo etico che poi magari non si pratica perfettamente, però è il messaggio che viene mandato alle cosiddette masse. Comunque era un'evasione molto controllata, erano soltanto grandi storie d'amore, a volte storie impossibili d'amore, ma non sconfinavano mai, non so, nelle categorie pessime della trasgressione, l'adulterio, la distruzione della famiglia. A me non mi sembra che fossero sempre ben contenuti come trame. Dipende, nella primissima fase, forse nell'illusione che le cose siano più aperte, gli autori propongono racconti anche trasgressivi. La prima storia di Grandotelli è di una che rimane incinta per fuori dal matrimonio, poi va a cercare il marito, cioè il fidanzato, negli Stati Uniti, c'è di mezzo la guerra, ci sono poi i partigiani. La prima è molto, e poi lei soprattutto è molto svestita. Quindi c'è un aspetto di trasgressione che viene duramente represso, con ritiri dei giornali, e allora diventa, sì, come lei diceva, più contenuto. Sì, più contenuto. Quindi erano partiti gagliardi, poi si sono un po' hanno aggiustato il tiro, hanno capito che non ci si poteva permettere di parlare di rapporti prematrimoniali, era una cosa. Far vedere una bellissima ragazza in bikini, ma proprio bikini, che fuma in pubblico, per esempio, è una trasgressione grossa. E questo poi per un bel po' non succede più. Se diciamo che per giustificare donne succinte al tempo, un settimanale come Il Borghese teneva delle foto all'interno di un giornale politico, un giornale molto ben definito, in cui c'erano le donne nude. Io ricordo che andavo a prendere Il Borghese di mio nonno perché all'interno, ma ci avevo avuto 12 anni, c'erano le donnine nude. Sentiamo Saverio. Saverio, buongiorno. Buongiorno. Il suo nome deriva da un eroe di fotoromanzo. Davvero. Nel 54 mia madre leggeva spesso fotoromanzi, come adesso tutte le donne di allora penso. E era innamorata non per senso fisico, però della bellezza di questo attore che si chiamava Saverio. Come la Wanda dello Sceicco Bianco, era infatuata dell'attore protagonista del fotoromanzo. Sì. E allora da lì è derivato il mio nome, anche perché in Toscana Saverio non è che fosse un nome molto comune, è un nome del sud, quindi per noi è una cosa abbastanza strana. Anna Bravo, adesso so che la domanda sarà molto difficile, ma lei ha documentazione un certo Saverio, eroe dei primi fotoromanzi, che ha dato il nome al nostro ascoltatore? No, sarà stato uno dei tanti. È una cosa frequente comunque, il personaggio dello Sceicco Bianco, della ragazza presa, allora il divismo non è che aveva molte possibilità di espressione, non era il divo della canzone, non era il personaggio del reality show, non era il presentatore televisivo, ma era l'eroe del fotoromanzo, quindi era abbastanza consueto. Erano proprio gli eroi che incidevano sull'immaginario, anche se magari non, certo, non forgiavano completamente, però incidevano, sì. Anche poi perché ci sono attori che diventeranno famosi o stanno diventando famosi, per Sofia Loren, Mastroianni, poi c'era. È più facile dire chi non c'era che chi c'era, perché tutti fanno fotoromanzi. E quindi questo sicuramente ha un impatto notevole su una fascia di pubblico che poi non è solo femminile, in realtà li leggono anche i giovani uomini, e questo è interessante, perché il bisogno di evasione l'abbiamo tutti. Sì, perché in fondo era facile anche identificarsi nella parte maschile dei protagonisti dei fotoromanzi, Io ricordo le cotonature dei capelli, dei fotoromanzi di seconda generazione, quelli degli anni 70, che poi ha cominciato a declinare. Avevano queste cotonature meravigliose, irreali, dei capelli che sembravano usciti da i figurini di un negozio di parrucchieria di quegli anni, appunto. Sì. Questo sicuramente. Poi sono in quegli anni, negli anni 70, sono anche già all'inizio sono fatti molto bene, con molta cura. Dopodiché negli anni cominciano ad esserci foto molto belle, belli abbigliamenti, insomma è una cosa che prende. Anche il colore è stato un cambiamento notevole nel fotoromanzo, perché all'inizio erano solo bianco e nero, poi è cominciato il colore, a me non mi ricordo che c'era una diversa possibilità di percepirlo e di fruirlo quando erano a colore. Una cosa, io vorrei suggerire al pubblico femminile 800240024 di farsi sentire, perché stanno chiamando soltanto maschietti, mi sembra molto singolare, che su un genere così propriamente nato, pensato e studiato, anche se la signora Anna Bravo ci dice che lo leggessero gli uomini, le donne abbiano una sorta di riservo, ma c'era, Anna Bravo, un ritegno nel leggere il fotoromanzo, come se fosse, come oggi dire, guardo i reality show, tutti fanno finta, ma no, che schifo, io non le guardo queste cose. Sì, certamente sì, ma dipende anche da chi era. La ragazzina che comprava il fotoromanzo lo nascondeva più che altro perché madre e padre non volevano, lo consideravano pericoloso. Invece diciamo che ceto medio eccetera avevano questa paura di sembrare non sufficientemente sofisticati, acculturati per leggere un prodotto di cultura di massa. È un po' quello il meccanismo. Ma poi come chi dice che non guarda Beautiful, ma invece lo guarda ancora oggi. Siamo arrivati, questa è la villa di Liala. Liala se l'è costruita con i diritti d'autore dei suoi 87 romanzi. Romanzi d'amore, naturalmente. I grandi scrittori e i critici sottili storcono il naso di fronte ai suoi romanzi, ma Liala e le sue lettrici rimangono. A che cosa attribuisce il suo eccezionale e persistente successo? Probabilmente al fatto di aver sempre capito le mie lettrici e i loro problemi. Probabilmente perché anch'io ho tanto amato, tanto sofferto per amore. Ho trovato modo di insegnare agli altri a guarire di queste ferite, oppure di ammalarsi ancora d'amore, ma ammalarsi con un buon risultato, con un successo definitivo. Questa è una vecchia intervista presa da un antico programma della RAI a Liala, al secolo Amalia Liala Cambiasi Negrettio Descalchi, una delle più grandi scrittrici di romanzo d'appendice, l'ispiratrice delle fugaci passioni scritte su carta stampata di un'infinità di signore e signorine. E pensare che Liala, che in fondo le sue erano storie di giovani fanciulle perdutamente innamorate di aviatori, lei stessa aveva un marito aviatore, quindi l'idea di questo uomo che usava l'ardimento come grande esposizione della sua potenza virile. Liala, il suo nome fu coniato da Gabriele D'Annunzio, quindi era un clima che poi ebbe una sfumata lunga. I romanzi di Liala arrivarono a lambire le nostre madri, quindi fino agli anni 50, 60, ancora ci sono delle cultrici. Però Liala è la capostipite di tutta narrativa che oggi le ragazzine vengono racchiuse nei loro fanzine, nei loro giornalini, fatti di richiami a personaggi dello spettacolo, della televisione, a piccole storie d'amore, a vicende sentimentali, umidicce, che nascono molte volte su un SMS, non sul romanzo di appendice. Lei cerca di indirizzare le sue lettrici verso un tipo di uomo particolare. Sì, probabilmente a tutte insegno ad amare l'uomo che è stato un po' il mio amore, il bel ragazzo, ma che non sia il bello stupido, l'uomo che possa piacere, che abbia anche dei numeri, che possa anche un pochino appagare l'occhio. Le potrei dare un bel pilota bruno alto, con gli occhi azzurri, che sappia dominarla, ma sappia anche darle qualche senso di poesia. Un giorno me la porti in campagna, magari su una modesta 600, la porti attraverso i prati, le parli molto di voli e speriamo che la ragazza si accontenti di questo. Più delle volte una bella ragazza così da un bel pilota può anche pretendere un bacio. Questa ragazza qui lo chiede e lo ottiene. Certo, come sono cambiati i tempi e quanto è sottile la malizia di Liala, non l'avverte chi non ha vissuto quell'epoca. Portare una ragazza sulla 600 significava portarla su una sorta di malandrina alcova semovente. La 600, con una trasformazione da poche lire, veniva fatta da qualsiasi carrozziere, poteva ribaltare il sedile e quindi improvvisamente si trasformava in una sorta di luogo foriero del peccato. Ma quanto poco oggi l'aviatore suscita invece passioni virili, quanto poco è legato a questa sorta di rapace sentimento di fuga. Ma basta montare su un aereo e vedere gli assistenti di volo e si capisce che è passato molto tempo, è cambiato molto il mondo. Il suo stile è così anacronistico nell'epoca di Pierpaolo Pasolini, è spontaneo oppure soddisfa un'esigenza dei lettori? Guardi, voglio essere sincera, è un pochino spontaneo e anche un pochino per soddisfare le esigenze dei miei lettori, perché oramai sono abituate a questo stile, vogliono questo stile. Se io tentassi di evaderne o di imitare, ammesso che io ne sia capace, lo stile di Pasolini, non lo accetterebbero dagli ala. Secondo lei il mondo è quello suo o quello di Pierpaolo Pasolini? Ah, guardi, sinceramente, senza peccare di immodestia, le posso dire che per tre quarti il mondo è ancora il mio e per un quarto quello di Pasolini. Beh, oggi, nelle distinzioni binarie la massima possibilità di trasgressione e la trasgressione assolutamente impraticabile, erano appunto due poli considerati fra gli ala e Pasolini. Pasolini raccontava una realtà anche molto più cruda, una realtà anche legata a un senso della passione non semplicemente fatto di aviatori e fanciulle, ma fatta di borgatari e poeti, che già era tutto un altro mondo, un mondo intangibile, intoccabile. Alberto Brodesco, buongiorno. Buongiorno. Alberto Brodesco è un giovane ricercatore, autore del saggio Harmony, contenuto nel volume Una galassia rosa, ricerche sulla letteratura femminile di consumo, editore Franco Angeli. Secondo lei è proprio il riferimento agli ala in un'analisi della letteratura femminile che è iniziata col fotoromanzo, in fondo la forma più conosciuta approccio a quello che poi diventerà la telenovela televisiva per le nostre generazioni di mamme e nonne? Sì, in gli ala si può parlare di artigianato industriale, mentre nel settore cosiddetto io, cioè Harmony, è proprio un'industria vera e propria, insomma, diciamo che quando arrivi in Italia all'inizio degli anni Ottanta spazza completamente la tradizione letteraria rosa italiana, che viene un po' colonizzata, il nostro immaginario rosa viene completamente colonizzato. Però i filoni che precedevano Harmony, che tutti ricorderanno, i romanzi Harmony ricordano ancora, si vendevano ovunque, erano di facile lettura e anche di facile portabilità, affonda le radici su un territorio già ben preparato appunto dal fotoromanzo e dai romanzi di Liaia. Sì, sicuramente. Per esempio, nella descrizione del maschio che ho appena sentito fare da Liala ritrovo il tipico prototipo di maschio del romanzo Harmony, che viene definito maschio alfa sia degli editori sia spesso dalle stesse scrittrici, che ha caratteristiche fisiche e caratteriali ben precise. È fisicamente sempre alto, muscoloso, abbronzato, forte, molto spesso scuro di capelli e particolare che viene sempre fatto notare che ha dei denti bianchissimi, mentre dal punto di vista caratteriale è potente, sicuro di sé, rassicurante, sempre all'altezza della situazione, non è un mediano, insomma, e quindi in questo possiamo anche ritrovare l'aviatore di Liala, come posso ritrovare anche il cronista televisivo. Sì, c'è questo trait d'union, lo vedo chiaramente. Sì, il cronista ormai è un maschio alfa di facciata, di apparenza, è rimasta l'aspetto esteriore, però non risponde mai alle caratteristiche del maschio alfa di Harmony, perché il cronista disprezza le donne, odia le donne, maltratta le donne, se la tira tantissimo, non sceglie mai, dilunga, poi in una delle ultime vicende dei tronisti confessa i suoi passati di frequentazione di trans, quindi ormai siamo andati ben oltre al maschio alfa celebrato dal fotoromanzo Harmony. Ma c'erano anche altri maschi alternativi per chi non poteva proprio prendersi l'alfa. C'era un beta, gamma, delta, si poteva arrivare fino a noi maschi omega? No, non ci si arriva proprio. Ma si finiva lì. Lo stesso identico maschio, proprio da quando è arrivata Harmony in Italia nel 1981 fino ad oggi, non è assolutamente cambiato. Anche dal punto di vista professionale, è sempre un ereditiero, un magnate, un imprenditore, oppure può fare delle professioni avventurose, ma sempre molto redditizie. Ecco, c'è un classico plot del romanzo Harmony. Come si svolge? Un incontro fugace, sì, una passione? La trama è sempre la stessa. C'è un incontro tra un eroe e un'eroina, ci sono degli ostacoli alla relazione, poi c'è un'unione finale che finisce nell'85% dei casi, secondo il campione che ho analizzato io, finisce con un matrimonio, e per il restante 15% finisce con una dichiarazione di amore eterno. E quindi l'amore c'è sempre, sin dall'inizio. Ma c'è una parte esplicita, insomma, fanno roba oppure questa cosa viene, diciamo, lasciata un pochino in sottotraccia? E all'inizio, negli anni 80, non facevano nulla, si lasciava tutto sottinteso. Adesso pare che la lettrice non si accontenti di più di rimanere alla soglia della camera da letto e voglia entrarci, e quindi ci sono addirittura delle collane dedicate ai temi della sessualità, temptation, passion, collane esplicitamente erotiche. Poi dove il maschio alfa verrà descritto in tutte le sue caratteristiche, anche più indecenti, immagino. Assolutamente, sì, io non posso leggere la radio, i passaggi. Ma hanno una grande fantasia le nostre ascoltatrici, hanno già capito. Sì, esatto. Poi ovviamente è una pornografia molto eufemistica, piena di cliché, priva di qualsiasi elemento di ironia. Sì, il suo meraviglioso dardo di fuoco, scriveranno cose del genere. Esattamente, cose del genere. C'è anche un frasario proprio per le aspiranti scrittrici armi, a cui possono attingere per prendere frasi come quella che lei ha appena citato. Sì. Proprio per dare il tempo del ritmo del fotoromanzo, della narrativa del fotoromanzo, esiste una lettura satirica, un doppio salto mortale rispetto a poi la trasmigrazione dei temi del fotoromanzo in televisione, che rese celebre appunto il trio Lopez, Marchesi, Solenghi in una delle più eccelse loro interpretazioni. Ho sentito un suono, deve essere la porta, Dolores. Sì, Pedro, anch'io ho sentito un suono. Deve essere la porta, Pedro. Hai sentito anche tu un suono, Dolores? Vedi, Pedro, deve essere qualcuno che suona alla porta. Ascolta, Dolores, io vado ad aprire la porta perché ho sentito un suono e credo proprio che sia la porta. Melog 2.0. È proprio vero che i palloncini vedono gli angeli quando vanno in cielo? Oh, certo. Solo che gli angeli non sono tutti in cielo. Sai, ce ne sono tanti anche qui in questo momento. E ti sono molto vicini. Sì, sì, è vero. La mamma, il papà, Suor Maria, il dottore, Vent'anni, tutti gli amici del papà e tutta la gente del circo. E anche tu, Giacomina, anche tu. Giacomino, figlio di una ballerina di varietà che l'ha abbandonato con il padre per fuggire con l'amante, è una storia molto triste. Deve occuparsi di suo padre, si dedica a uno spettacolo di marionette per sopravvivere, è colpito da una forma gravissima di anemia, verrà ricoverato, ma prima di morire la madre verrà a fargli visita. E anche lei con un signore che porta una sfiga terrificante, che ha una faccia da menagramo, che vende i palloncini. Ogni volta che appare il venditore di palloncini, qualcuno deve schiattare. E alla fine toccherà anche a Giacomino. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Sansonna, critico cinematografico, regista, autore di Zemanlandia, che già ci accompagnò passo passo nel misterioso, fantastico e lubrico mondo dei film di Alvaro Vitali e dei B-movie Pecorecci. Questa mattina ci accompagna in un nuovo percorso, un percorso però che merita attenzione, serietà e senso di partecipazione, che è quello del Lacrima Movie. Trovi giusto, Sansonna, il mio accostamento con la meravigliosa fotonotizia del Corriere della Sera e il genere Lacrima Movie? Assolutamente, c'è una continuità assoluta fra i due mondi, quella pornografia dei sentimenti, quell'orgia sentimentale che c'era nella Lacrima Movie si è traslata nel mondo della stampa che la utilizza in... I topoi che vengono toccati, lambiti e sfiorati in questo genere corrispondono e combaciano. C'è il bambino sempre di umili origini, il bambino sempre con una famiglia alle spalle perlomeno problematica, se non proprio propriamente sfigata, il bambino in una situazione ambientale drammatica, paradossale, bambini figli di pescatori, bambini orfanelli, bambini buttati in luoghi terribili, bambini sempre a contatto con adulti che non capiscono il loro dramma, se non alla fine, nel momento catartico in cui il bambino o muore o schiatta una grande malattia o accade qualcosa per cui ha un attimo di riscatto, che può essere di due tipi il riscatto. Spirituale catartico, il bambino ha una visione, l'albero con le foglie rosa, di tipo riferita all'iconografia sacra cristiana, o mamme, nonne, zie, vecchi parenti, un po' come la piccola fiammiferaia. Nel Venditore di palloncini possiamo dire qualcosa di più, che il film che ho notato non è il primo di questo filone, ma diamo una genealogia a questo filone. Il filone nasce nel... diciamo che il parente nobile del filone è Incompreso di Comencini, che comunque era un film d'autore, un melodramma d'autore. A degradare c'è, cioè, poi nel 73 arriva l'ultima neve di primavera, e solamente un film in cui c'è sempre il solito Renato Cestier come vittima sacrificale, e c'è uno strepitoso Baking Femiu, che era già l'Ulisse televisivo, che è questo padre che concede a questo bambino morente l'ultimo giro sulla giostra, e il bambino spira fra le sue braccia avvolto in una coperta da questo pallore cadaverico. C'è questa sorta di accumulo di cliché dalla musica straziante, all'orgia di violini, che devono condurre assolutamente lo spettatore alla sofferenza, al pianto. Sì, deve esserci una sorta di parossismo orgasmatico lacrimoso alla fine, si immagina che tutti escono piangendo. Allora io adesso cominciamo a farvi ascoltare, vorremmo coinvolgervi nel Lacrima Movie, e vi preghiamo 800 24 00 24, già vedo che su Facebook, che è il luogo di facile maneggio del sentimentalismo retorico, già ci sono le prime persone che danno delle reazioni, e Cristiana dice: piange davanti a un Lacrima Movie è tanto liberatorio. Lei lo faceva col dottor Zivago, la famosa scena dello schianto del dottor Zivago nella rincorsa del treno. Emanuela, Balocchi e Profumi, un classico per te con la voce dannata di Luciano Taglioli. Più perfida la donna perduta di così, che vabbè, sta dicendo andando avanti in un suo delirio, perché di prima mattina le mie ascoltatrici già sono alla quarta mezza bottiglia di grappa, quindi troviamo una piacevole humus. Allora, abbiamo detto, iniziamo con il Incompreso trae le radici nella letteratura seria, è un romanzo di Florence Montgomery, ne fu tratto un film nella fine degli anni 60. Io ero già stato, al tempo che uscì nel 67 il film, già sufficientemente massacrato nelle mie infantili gonadi da mia nonna, che mi leggeva Incompreso. Non riuscivo mai a sapere come andava a finire. Mia nonna piangeva, aveva il groppo alla gola ogni volta che raccontava la storia, questo bambino idiota che si balocca su un albero, sale su un albero, fa una sorta di sfida, alla fine giustamente si schianta l'albero, finisce paraplegico, muore, qualcosa del genere. Dove sono i bambini, Duncan? Non ci sono, li ho mandati via. A casa dei Gill? Appena ho capito che non c'era più speranza. Non sanno ancora niente. Ad Andrea glielo dirò. Andrea è grande ormai, non so ancora come, ma troverò il coraggio. Milo, cercheremo di distrarlo. Lui crede che sia partito. Ecco, Sansonna, la musica è indispensabile per dare il clima del Lacrima Movie. In particolare, cosa accade? C'è la storia di un diplomatico britannico, lavora a Firenze, rimane vedovo naturalmente con due figli, Andrea di 8 anni, Milo di 4. Naturalmente tutte le sue attenzioni sono per il piccolino, il grande è geloso, si sente incompreso dal padre, e il padre comprenderà soltanto quando sarà in punto di morte che ha due figli invece di uno. Esatto, questi film vanno a toccare l'insopprimibile piacere che ha lo spettatore di piangersi addosso, di identificarsi con la vittima, cioè quella voluttà che si ha a immaginare il proprio funerale e vedere tutti che piangono. A differenza della tragedia greca, no, qui siamo proprio esattamente all'opposto, cioè il dolore è tutto esibito con tutte le forme linguistiche a disposizione, tutto l'arsenale viene sparato intero, ecco, e l'accumulo di cliché porta quindi a... Sì, non si risparmiano munizioni, nulla si risparmia, ma avevano dei circuiti molto particolari. Mi stanno citando su Facebook tutti Catene, soprattutto Marcellino Panevino, un classico. Ricordo ancora il calendario di Frate Indovino di quegli anni, immagino fine anni 50, con mese per mese la storia tristissima di Marcellino Panevino, un bambino anche lì orfanello, adottato da un convento di frati, che non so se sia meglio rimanere soli o doversi essere il balocco di un convento di frati cappuccini. Alla fine però c'è anche lì un momento catartico, perché Marcellino Panevino ascende perché ha un suo momento mistico. Quindi erano film che andavano in circuiti parrocchiali, servivano, diciamo, a dare un rinforzo ludico a quella che era poi l'insegnamento del catechismo, qualcosa del genere. Sì, però diciamo, c'erano, come citavi tu prima, dei sincretismi assurdi, perché nel Venditore di palloncini poi la morte o il filo delle parche viene tessuto appunto da Cyril Cusack, che arriva con questi palloncini che sarebbero le anime dei bambini, quindi si fondevano vari linguaggi, varie suggestioni. L'ultima neve di primavera, manca il momento clou, vi toglievo il meglio. Sentite. Sono stanco, papà, se mi addormento tienimi la mano, così so che non mi lasci. Il padre, con un barlume di nozioni di fisiologia, per accelerarne il decesso lo porta sulla giostra girando più veloce, e il figlio scatta prima, anche perché lo avvolge con la copertina, fa anche più freddo. Questa è la scena finale dell'ultima neve di primavera. Il padre, Baking Famous, questo Ulisse televisivo, riesce a coinvolgere, a convincere tutti quelli del Luna Park a riaprire apposta per l'ultimo giro di Walzer, in cui il Renato Cesti appunto tira le cuore. Era la giostrina con i cavalli, che è un ricordo confuso con quello che volgarmente veniva chiamato, ma è un termine comune per tutti, il calcio in culo, che è quello che gira. Non era un calcio in culo, sarebbe stato meno romantico, Gianluca, però andava più veloce il calcio in culo, era più facile che morisse. Però bisogna estenuare fino alla fine il Giorgio, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno a tutti voi. Si sente toccato da questa scena finale dell'ultima neve di primavera? Certo, è telefonato apposta, perché guarda, quella scena lì, io tuttora, nonostante che abbia 47 anni, nonostante che io sia refrattario a tutti i film di questo tipo, le scene dei film di Renato Cestier, tanto in questa che in Bianchi Cavalli d'Agosto, se non ricordo male, che allora io vedevo da 13-14 anni, tuttora io non riesco a vedere queste scene senza commuovermi, tra la commiserazione naturalmente delle mie figlie e di mia moglie che ridono, e si vede che a me queste cose hanno lasciato dentro, chissà, la mia infanzia, qualche cosa, e tuttora la scena della giostra del bambino che muore in braccio al babbo, io non riesco a vederla senza che mi vengano le lacrime. Ce le viene un groppo alla gola, pensare, bravo, il Cesti avvolto. Sì, ma adesso onestamente, con profondo, e apro una parentesi, rispetto per tutto il dolore e la sofferenza degli esseri umani, e non parliamo nemmeno, non riesco nemmeno a pronunciarla, la sofferenza dei bambini, era una terrificante cialtronata, fatto apposta per farci piangere e farci tornare a casa a abbracciare i genitori, mamma, papà, sarò buonissimo, ti prego, non farò più nulla. Era una sorta di arma di ricatto, era un cilicio emotivo che ci imponevano nella nostra fresca età in cui avremmo voluto divertirci e ridere. Severissimo, severissimo, ma funziona sempre. Gianluca, sentiamo Gianluca. Gianluca. Buongiorno. Lei l'ha visto almeno 20 volte l'ultima neve di primavera? No, io l'avrò visto 20 volte, ce l'ho registrato e ho pianto 40 volte. Ma cosa ha fatto di male nella vita? Cosa pesa sulla sua coscienza per questo catartico momento di espiazione? No, sinceramente è un film, io l'ho visto assieme ai miei genitori che avevo 10 anni. Più o meno anch'io quell'età lì. E mi è rimasto impresso perché a me la sofferenza dei bimbi, e poi vedere comunque... Sì, ma lì non è che Cestier soffriva, Cestier ha fatto la sua fortuna, insomma, facendoci piangere. Cioè, sui nostri complessi di colpa, lui si è aperto una palestra, oggi è un personal trainer famoso. No, io parlo del film, vedere la scena della bimba, della sua amichetta che lo va a trovare, lui sofferente, insomma. Da ridere, però, scusa. A me no invece, perché io sinceramente, io l'ho visto anche, guardi, 15 giorni fa, ce l'ho registrato, quindi sono praticamente, il film è di una 40 anni fa, sì, più sì, o meno. Sì, sì, sì, da 40 anni lei guarda sistematicamente l'ultimo anime. Questo è interessante, guardi, io ho profondo rispetto di tutti i metodi di felicità e di equilibrio che possa mettere in atto una persona. Se lei questa cosa la fa star bene, la mette in pace con se stesso, è una sorta di memento mori costante che le permette di ponderare quelli che sono i valori della vita, secondo me fa bene e se lo somministri in dosi moderate. Io non lo guardo perché mi fa star bene. Lo saprà a memoria. Però mi fa riflettere comunque su... io ho tre figli. Sì, ma fare una passeggiata magari in un ospedale, in un orfanatrofio, non lo farebbe riflettere di più? In effetti è quello che io... Io ho passato alcuni giorni in ospedale con mio figlio e ho visto, ero di fianco alla, cioè, all'oncologia pediatrica. Sì, ho capito, ma quello che volevo dire, andare realmente in questi posti, questa oggi non è una trasmissione che vuole dare istruzioni tipo etico, una trasmissione ridere su un genere cinematografico, secondo noi scellerato e cialtrone e basta, però se uno avesse bisogno di avere un contatto concreto con la sofferenza umana, ci sono i luoghi in cui la sofferenza si produce realmente, non da un regista paraculo che fa vedere dei film di bambini sofferenti per fare cassetta. Melog 2.0. No, bambina mia, non sto piangendo, mi fanno solo male gli occhi. No, papà, questo non è vero, lo so perché tu piangi, è per la mamma che gli vuoi sempre bene. Dai, papà, non piangere, vedrai che un giorno la mamma ritornerà. Dai, cuore mio, adesso andiamo a letto, perché sono già le 11 di sera e tu sei ancora sveglia. Voglio molto bene, papà. L'ascoltatore John su Facebook dice che i lacrima movie sono dei lassativi emozionali. Servono a causare spasmi emotivi che culminano in pianti epurativi. Ci aiutano a ricordare che siamo in grado di commuoverci ed avere questo in questo senso ci rassicurano. Scusate, ma non riesco a resistere sentendo Rocco Di Quinto che canta questa struggente canzone con la bambina orfanella sotto Natale che parla con il papà e poi miseramente finiranno entrambi non si sa dove, in quale atroce destino. Per colmare questo mio momento di comprensibile defaillance, mi scuseranno gli ascoltatori, non mi hanno mai sentito piangere alla radio, sentiamo Giuliana. Giuliana, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io la seguo e le volevo dire subito che la rappresentazione stucchevole del dolore che colpisce tutti noi o ci può colpire mi subito desta un nervoso terribile e non li posso seguire, cioè prendo stacco. Ma come, non la tocca la storia tristissima di questa? No, ma può darsi pure che magari potrebbe toccarmi, ma la mia razionalità si rifiuta di essere presa in questa trappola, ecco, non proprio non mi... Sì, sono trappole emotive, in realtà ci vogliono far piangere, appunto, lo scopo è suscitare un'emozione. Che non voglio essere vittima, scusi, io sono ammalata, quindi in questo momento... No, adesso vuol fare il lacrima movie della sua vicenda, non ci commuove. No, no, per carità. Lei non è una bambina, voce, non ci può commuovere. Forse non so se si sente bene, perché ecco... Ma non è in punto di morte. Volevo dirle questo, prendo e stacco quando o vedo, ascolto cose del genere. Allora, la saluto e complimenti. Grazie signora, mi raccomando guarisca. Franco. Sì, buongiorno. Lei invece no. È toccato, spero, da questo filone. Sì, io ho un ricordo veramente ben preciso. Mi ricordo che quando è uscito Incompreso, addirittura la nostra scuola ci portò al cinema a vederlo. Era tutto un coro di pianti e di lacrime. Sì, ricordo benissimo che quando si riaccese, praticamente alla fine del film, le luci non vennero accese subito, perché sicuramente anche piangeva anche quello delle luci, il tecnico delle luci. Beh, no, volevano creare un climax ambientale proficuo, nel buio si piangeva di più, quando li accendevano c'era la grande sorpresa, tutti i bambini che piangevano. Ricordo le maestre che non riuscivano a guardarci, ricordo i maestri, una cosa veramente... Per me è un ricordo straziante. Ma io mi ricordo adesso, ma ha fatto venire immediatamente una storia. Dunque, quando facevamo la dottrina per la prima comunione, anche nella mia parrocchietta di paese proiettarono uno di questi film. E mi ricordo che alla fine dovevamo tutti piangere e facciamo anche... aumentavamo il livello di lacrime, perché passava il prete, ci guardava e diceva: bravo Gianluca, vedi, bravo che hai pianto. E io mi ricordo, a me non veniva da piangere, e tutti piangevano, paraculissimi i miei compagni di dottrina, finse anch'io il pianto per sentirmi dire bravo dal prete. Giuseppe Sansonna, questo bravo gratificatorio perché pianto significa un riconoscimento di essere stato toccato in quella che era la grazia salvifica del Lacrima Movie. Guarda, mi fai venire in mente invece proprio un capostipite dei Lacrima Movie, che invece che è un capolavoro assoluto del genio Bresson, Mouchette, Tutta la vita in una notte, tratto da Bernanos. Anche lì la tematica è la stessa, c'è una bambina che ha questa sofferenza tremenda, assiste la madre malata, però lì è poesia pura, è catarsi pura, perché non c'è nessun tipo di trucco, di furberia di linguaggio, e addirittura non c'è musica, la bambina muore fuori scena, cioè il recupero del senso del tragico, muore quasi giocando, rotolandosi sull'erba e finisce in acqua fuori scena, e parte lì la musica di Monteverdi solo nel finale, quindi non è l'argomento che è cinico, è il modo, è la forma che è terribilmente cinica. Quello che mi ha ricordato te, con una citazione di ben altro spessore, che tocca ben altre corde, è un altro Lacrima Movie, probabilmente non conosciuto a livello nazionale, in quanto molti di questi film giravano su circuiti locali, circuiti regionali, circuiti parrocchiali, erano proiettati in occasione, non so, di trasferte, pellegrinaggi, di ritiri spirituali, di feste rionali, via dicendo, che è Luca Bambino Mio. Luca Bambino Mio è una storia di cui sotto mano non ho la traccia, ma avrò poi chi presto ci dirà di più di Luca Bambino Mio. La storia di un bambino che vive in un ambiente peschereccio, figlio, parente, orfano di pescatori, non si è ben capito. Anche lui dovrebbe essere sbattuto in un orfanatrofio da un prete crudele. Ha una sorta di spirito guida, che è un pescatore del posto, che anche lui morrà schiattato, affogato. Luca Bambino Mio entra in una caverna, non so come, bambino piccolo, 7 anni, entra in una caverna e vede uno strano e singolare pescatore con dei begli occhi, che parla molto bene, con una bella barba, che insomma era Gesù. Ciao. Ciao. Chi sei? Mi chiamo Manuel. Io mi chiamo Luca. Siediti. Non ti ho mai visto qui. Sei uno di quei vagabondi che girano il mondo. Non hai una casa? La mia casa è il mondo intero. E dopo di qui dove andrai? Le vie sono tutte buone per me. Oggi sono qui e domani altrove. Ne devi sapere tu di cose, eh? Il mondo è molto piccolo, Luca. È quello che diceva sempre Juan Aguirre. Fino a poco fa stava con me. Un giorno è andato in mare e non è più tornato. Tutti i giorni vado ad aspettarlo. Io ho conosciuto molto bene Juan Aguirre. Davvero? Sì, era un uomo buono. Luca Bambino Mio è ambientato in qualcosa tipo le Asturie, la Galizia, nel nord della Spagna, che più o meno è una zona contigua a dove si produsse Marcellino Panevino, che era in Portogallo, quindi è una zona dal misticismo oceanico, quindi funzionava molto bene. E, ripeto, il contesto era quello di un bambino cresciuto in un ambiente dei pescatori. Senti, Juan Aguirre, non pensi che dovremmo mettere Luca in qualche collegio della città? Vuol dire in un orfanotrofio, no? Ho detto in un collegio. Don José, sappiamo bene che sarà un orfanotrofio. Beh, chiamalo un po' come vuoi. Però tu non credi che starebbe meglio lì? Col suo permesso, no. Perché? Perché? Perché lì sono sicuro che si sentirebbe un orfano. Mentre qui è un ragazzo che aspetta che torni sua madre. Ma tu sai che questo è impossibile. Dovrebbe accadere un miracolo. Lei non crede nei miracoli? Io ci credo. C'è un nostro amico che il pubblico di Melog conosce, il regista Luca Martera, che deve il suo destino onomastico a Luca Bambino Mio. Luca Martera, buongiorno. Ciao Gianluca. Racconta la tua storia. Beh, nomen omen, perché questo nome mi ha un po' portato fortuna, perché nel profondo sud dove sono nato, Taranto, quindi città marina è devastata oggi dalla diossina e dall'ILVA, un senso ce l'ha tutto questo, perché poi sono diventato appunto regista, o comunque ho fatto cose, faccio cose legate all'audiovisivo e solo in una cosa. Beh, Luca aveva delle visioni nella caverna, tu visioni ancora ne hai, ne regali semmai. Sì. C'è una bella contraddizione sul destino di questo nome, perché i miei rimasero turbati, mio padre è un ex pescatore e poi operaio, quindi rimasero molto turbati da questo film, perché era impregnato di appunto quel misticismo a cui alludevi tu, e loro sono devotissimi attualmente di Padre Pio, quindi c'è una, un fil rouge, una continuità, solo che io mi sono pure sbattezzato, quindi credo che loro sia stato un colpo, essendo questo comunque film, tu ti chiami appunto... Luca perché tua madre vide Luca bambino mio al tempo, sì, che ti attendeva. Quindi diciamo che la parte importante della tua gestazione è stata sotto l'influsso di Luca bambino mio. Sì, solo che poi c'è stata l'incubatrice, nel senso che ho manifestato precocemente la mia indipendenza. Quindi sì, però adesso svelo un tuo segreto. Questo film, che è praticamente introvabile, Luca bambino mio, tu potresti darci qualche indicazione di più su, sulla sua genesi e soprattutto sul documento che hai in mano? C'è un particolare molto interessante. Il film è del 71 ed è oggi introvabile perché non è mai stato distribuito neanche in VHS o DVD. Io sono riuscito a recuperarlo grazie al quinto sceneggiatore che figura nei crediti, che è un italiano, si chiama Luciano Martino, cioè un produttore e regista poi di film scollacciati, Edwidge Fenech, fratello del altrettanto famoso Sergio Martino. Sì, tutte le corde dell'emozione tocca. Quindi tu hai in mano questa copia originale di Luca bambino, sì, mio, e per Natale? E per Natale lo farò vedere per la prima volta ai miei genitori dall'epoca. Ed è una sorpresa, a meno che non mi stiano sentendo adesso. No, non ti sentiranno senz'altro, almeno spero che non ti abbia sentito in questo momento. Quindi dimostra che in fondo, vedi, la profonda e commovente storia di Luca bambino mio ha in un attimo schiarito la durezza del tuo cuore impietrito e ti ha fatto fare un gesto buono per questo Natale. Luca bambino mio. Mamma! Questa è la mia croce, formata da tutte le sofferenze dell'umanità. Perché in verità vi dico che io sono il Dio dei poveri e degli abbandonati. Oddio, c'è da dire in questa scena mistica con la quinta del crocifisso che guarda Luca bambino mio che si ricongiunge con la madre, c'è solo un punto, la madre di un'orripilanza terrificante, quindi il bambino probabilmente inizierà una traumatica esistenza a fianco della mamma perduta. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111.